bentornati. Diamo il benvenuto a Alberto Prunetti, che ci accompagna da sempre, ci sostiene questo festival e che è qui a dialogare insieme ad Anthony Cartwright, che abbiamo l'onore di ospitare. Virginia, qui presente, si occuperà di tradurre per tutti noi. Quindi grazie per essere qua, benvenuti. Io vi ringrazio per l'invito e ormai sono anni, 3 anni di seguito se non sbaglio, che vengo a Firenze. E il primo anno mi lamentavo del fatto che fosse difficile parlare di narrativa working class in Italia, però probabilmente le cose stanno cambiando, perché nel corso del tempo abbiamo avuto tutta una serie di pubblicazioni che ruotavano attorno all'immaginario della vecchia classe operaia e della nuova classe dei working poor, lavoratori sfruttati e lavoratrici sfruttati della contemporaneità. Domani presentiamo 2 libri della nuova collana Working Class di Alegre e oggi abbiamo questa opportunità. Forse devo parlare, tagliare un po' più. Riassume. Okay, sì. Ok. E oggi abbiamo l'opportunità di avere una delle voci più interessanti della narrativa inglese, che è Anthony Cartwright, autore di romanzi tradotti tutti in italiano dalla casa editrice 66 and Second, ricordiamo Heartland, Iron Towers, che ho trovato fra i romanzi più significativi, sinceramente, più belli, che sono stati accolti in traduzione dall'Inghilterra negli ultimi anni. Adesso arriva con The Cut, Il taglio, che è un romanzo anche un po' diverso dagli altri, molto particolare, e sarà bello parlarne con lui. Ha a che fare con la questione della Brexit, ha a che fare con la questione della working class, ci parla dell'Inghilterra dei nostri giorni, di un paese diviso fra chi vuole andarsene e chi vuole stare, diviso per divisione di classe, diviso geograficamente fra un nord impoverito, deindustrializzato, e un sud che si arricchisce velocemente, un sud di finanza, di affari, di business, che in qualche maniera che si mangia anche l'anima del paese, anche il nord. E niente, quindi do il benvenuto a Anthony e lo ringrazio per essere venuto qui da noi innanzitutto. E adesso gli pongo qualche domanda, ascoltiamo le sue risposte e poi se ci sono domande da parte vostra sono felicissimo. E ho un canovaccio sì, di domande, ma vado anche un po'. La prima questione, volevo chiederti di raccontarci qual è la genesi di questo libro, di The Cut, perché so che ha un percorso diverso, è quasi un lavoro che ti è stato chiesto di fare. E quindi se ci racconti perché hai scritto questo libro, su chi te l'ha chiesto e che cosa ti proponevi di fare scrivendo il libro. So you want to know how this book is born, the idea that you have. Thank you everyone, by the way, it's lovely to be here. And part of a sense of real community, actually, this afternoon and with the festival, hopefully there's a spirit of that community in some of the things I've tried to write in both Iron Towns and The Cut. Sì, lui dice che è molto contento di essere qui. Ah, avrete capito un po', immagino, comunque parlerete un po' di inglese, magari. Meglio di me. Comunque, lui cerca di ama molto questo spirito comunitario ed è proprio questo che cerca di descrivere nei suoi libri, è proprio questo senso dei luoghi comunitari, come gli sembra questo. And so with The Cut was formed very differently from my previous novel Iron Towns. So writing Iron Towns was the more traditional way of writing a novel, and grew kind of organically from my work, which is all set either in Dudley in the Midlands or a kind of reimagined version of it, which is what the Iron Towns are. And the cut was very different. Sì, lui dice la genesi di questo libro è molto diversa dal libro precedente, Ironstown, che nasce in una maniera più tradizionale, diciamo, dal romanzo in cui lui ha fatto ricerca e in un luogo specifico, parla proprio di un luogo specifico. Non so se qualcuno di voi ha incontrato il romanzo, appunto, Ironstown, ma lui dice appunto è parecchio diversa la genesi da questo nuovo. And the cut was different because it was a commissioned piece of fiction, which is unusual in the UK and in Italy, I think. And the commission was to write fiction in response to the Brexit vote. And I was asked, I think, because I've spent pretty much half my life in Dudley, kind of very, you know, there's a working class background and family and so on, which I've written about. But now I live in London, and I teach and write, and so maybe I have experience of two worlds. The idea with publishing was Pyrene Press usually publish European fiction in translation. So an interesting thing for the project was, given the subject matter, Brexit, was to also, to some extent, take a European form. They're often novellas, shorter than most English novels. So that was a discussion I had with Maika Zia Vogel, who's the publisher at Pyrene. Ok, allora innanzitutto è un lavoro diverso dal precedente perché è un lavoro su commissione, cioè adesso la casa editrice gliel'hanno commissionato proprio a tema Brexit, quindi per rispondere appunto al tema della Brexit, quindi è automaticamente diverso dalla scrittura dell'altro libro che era invece nato più tradizionalmente dalla sua volontà, dal suo desiderio. Lui dice che ha vissuto appunto, è cresciuto a Dudley, quindi così in un contesto di working class, e poi però adesso vive a Londra, dove insegna, dove scrive, quindi vive una realtà molto diversa rispetto a quella che viveva nel suo luogo d'origine e da cui viene il primo romanzo. Quindi questa è un'altra differenza tra i due lavori, che viene dal suo trascorso personale. Il terzo punto di cui lui parla è rispondere a una forma più europea, lui la chiama, di forma letteraria, cosa che lui sta spesso discutendo col suo editore, perché appunto questo nuovo il taglio non solo è su commissione, ma doveva avere anche dei canoni diversi da quello precedente, che è appunto un romanzo. E quindi lui appunto esprime queste differenze tra i due lavori. And just to say, I wanted to write it as part of a series of work about Dudley, so it was important for me that it was a Midlands setting. Yeah, and also. The idea of two worlds, obviously with this case, was people voting to leave the EU, people voting to remain, but hopefully with the story, that all gets a little bit more complicated than a simple yes-no binary equation. Allora, questo il taglio vorrebbe essere per lui idealmente una parte, diciamo, di come una saga, no? Su Dudley, appunto, sul paese, quindi magari lui, chissà, poi glielo chiediamo, proseguirà forse questo argomento. E per lui era importante rappresentare appunto non solo un popolo che sta scegliendo, che sta votando di rimanere o no parte della comunità europea, quindi il referendum sulla Brexit, voleva esprimere che c'è più strati, più livelli, che è più complicato di una risposta binaria sì o no, ma è un qualcosa che effettivamente influenza le vite, le cambia, soprattutto quelle dei lavoratori. E quindi insomma lui vuole restituire questo, vuole restituire le sfaccettature di una situazione politica che magari all'esterno forse viene percepita appunto come un sì e no, ma poi ha delle ricadute sulla vita, e quindi per lui era importante esprimerlo. Ecco, il taglio ovviamente non va interpretato in senso appunto binario, manicheo, no? Come i due personaggi non sono immediatamente da pensare come uno favorevole e l'altro contrario alla Brexit, però in parte è anche sì, nel senso c'è un personaggio che viene femminile, no? Grace, che viene dal un contesto cosmopolita, è una lavoratrice del mondo dei media, della comunicazione, vive a Londra, non è una privilegiata Grace, è comunque una persona che ha delle ferite, conosce anche lei la fatica di vivere, l'oppressione, è un personaggio riuscitissimo secondo me, che è Cairo, è uno che ha la nostra età, un 45enne, fa un lavoraccio perché lavora lavora in quel che rimane dell'industria di Dudley, quindi non solo che non, io sono figlio di uno che faceva manutenzione, lui fa l'opposto, smantella le vecchie architetture industriali per il riciclaggio dei materiali, quindi per riciclare il rame, il ferro, le plastiche, quindi smonta piano piano i pezzi del glorioso passato industriale del Black Country, delle Midlands. E ovviamente Cairo invece è uno che sta che ha votato per andarsene, e ecco, non voglio che la discussione si vada su ragioni favorevoli o contrarie alla Brexit, volevo stare sui personaggi del libro, ma sarebbe interessante chiedere a Anthony, costruendo un personaggio così bello, a tutto tondo, profondo come Cairo, che cosa motiva la sua rabbia, che cosa motiva il suo risentimento, contro chi effettivamente ha votato Cairo? È qualcosa solo per andarsene dall'Europa, oppure sta protestando verso quel mondo rappresentato da quegli altri? E chi sono gli altri? C'è un noi e un loro nel libro che torna, un us and them. Vuoi che traduca anche o solo la domanda? You talk about the two characters of the book, especially for Cairo, which he think is a beautiful character, beautifully right character, whatever. You want to know what is the motivation of Cairo? What is drive Cairo to his anger? His frustration? Why he want? No, it's not just about the vote, like you said before. It's a problem that a little bit complicated for his character. He just want to leave Europe because he thinks who are the enemy here for Cairo? Because okay. Europe, he saw Europe in a certain way, but why? Okay. So Cairo's anger is very important to the novel, as Alberto says. So when the novel starts, Cairo is in his early 40s. He is an ex-boxer. He wants to fight again, but his body is perhaps against him as a man in his 40s. But the real source of his anger is not really is not the physical, although that is a manifestation. It's a sense of powerlessness, I think. Cairo's job in the daytime is to take down and take apart and dismantle what remains of the old industrial sites to look for scrap, treasure. So again, he feels a sense of real powerlessness about this. Sì, ecco, allora, quando il romanzo comincia, lui ha, il protagonista Cairo ha 40 anni ed è un ex boxer, quindi la metafora di un combattimento anche fisico, insomma, del suo percorso. Lui vorrebbe, ha la spinta a combattere ancora, ma anche fisicamente non ce la fa, non è più giovane. Questo si traduce poi nella sua, lui usa la parola appunto impotenza, un senso di impotenza, un senso di sconfitta. Lui proprio, come diceva prima nell'introduzione, dismette, cioè fa questo lavoro di decostruire tutta la, così, la passata storia industriale del suo paese, e chiaramente è palese, lui sta decostruendo, non sta costruendo, quindi è completamente powerless, ha detto lui, cioè si sente impotente, si sente di non riuscire a combattere più, quindi la sua rabbia viene dalla frustrazione di questo. And the story is of Cairo meets Grace, who is from a very different liberal middle class London media background. She's a journalist, a filmmaker, who goes to Dudley to film responses and attitudes around the vote. And I kind of based that initial, the first meeting is based on kind of real television reports of the time in the UK. Sì, allora lui incontra la protagonista, la coprotagonista del libro, il personaggio femminile Grace, che appunto viene dalla middle class, quindi inglese, da Londra, quindi una cosmopolita, comunque una regista, insomma una donna appunto di un certo tipo, e il loro primo incontro è proprio così narrato, descritto un po' come... lui dice televisivo, insomma, come lei va proprio a intervistarlo e viene ripresa, e quindi l'immagine che c'è di questo incontro è proprio di questi due mondi che si incontrano, in cui uno va a chiedere, va a fare delle domande, e l'altro deve dare delle risposte. And so I guess to Cairo, Grace represents power of a sort. Not clearly politically defined, so maybe neither left nor right, although both Cairo and Grace would have voted Labour and be Labour Party voters, but the difference is cultural, social, and for Cairo I think them becomes the cultural difference. It's the people with power. Chiaro. Allora, per Cairo, appunto, lei rappresenta un po' un'espressione di un potere, in un certo senso, centrale, quasi, viene proprio da Londra, quindi ci deve essere questo, no? Lettura da parte di lui. Per lui, però, non sono politicamente diversi, tutte e due appartengono, sono laboristi, insomma, al partito laborista, quindi non sono uno di destra, uno di sinistra, come noi potremmo intendere in Italia. La differenza è però culturale, profondamente culturale, quindi di background, di trascorso, e lui la identifica, quindi lui la vede come diversa in questo senso. Lei rappresenta proprio questa middle class, forse anche un po' questa intelligenza, no? Questa la chiameremo forse più borghese di lui, ecco, noi, che è uno della working class, però fondamentalmente cioè, votano la stessa cosa. Well, maybe just to say, I'm not sure that Grace is a particularly good target of Cairo's anger. Partly because she is actually there in Dudley to listen, and actually somewhere in this story, there's the problem of silence on Cairo's part, or people around Cairo, of silence and people not listening. So it's maybe there's an irony there, maybe. In realtà, appunto, lei non sarebbe effettivamente un nemico naturale per lui, perché comunque, a prescindere da tutto, è lì per ascoltare. Quindi, cosa che invece Cairo, e quello che Cairo rappresenta, no, è proprio quello il problema. La classe di Cairo non si sente ascoltata, si sente senza una voce, e quindi in realtà lei è lì per dargliela, quindi in realtà non è proprio un nemico, non, no, è un po', lo dice, una contraddizione appunto in questo, perché in realtà lei è lì per ascoltare, per fare delle domande, cosa che invece è proprio il problema, no, del libro. La working class non si sente ascoltata, non si sente, si sente completamente priva di voce. È proprio l'atto rituale del passaggio del testimone del microfono. Sì, infatti è molto complessa, perché non si può semplificare la storia di questi due personaggi. Lei è probabilmente una liberal, è una progressista, e si muove verso Cairo. Il problema è che a Cairo si riaprono le ferite quando il mondo della questo mondo del progressismo middle class si avvicina, quindi è più forte di lui in qualche maniera. Io penso proprio, c'è chi ha parlato di ferite di classe per raccontare quel senso di frustrazione che ti parte dall'infanzia e ti accompagna per una vita, e paradossalmente contro la propria volontà. La mia sensazione è che un personaggio, ma qualcosa io provo anche nella mia esperienza di vissuto, è come se ti tornassero a sanguinare le ferite di classe di fronte a questo al contrasto con l'altra parte, perché le società sono divise, ovviamente. E quello che sarebbe interessante capire è com'è che siamo arrivati a questa rabbia, cioè cos'è successo, perché l'Inghilterra già lo era, ma ancora più oggi è divisa fra un nord impoverito, deindustrializzato, pieno di rabbia, risentimento, e un sud. È successo qualcosa, nei primi anni Ottanta in particolare. E alla fine si torna sempre lì, allo sciopero dei minatori, alla Thatcher, alla trasformazione di una società che era anche una società industriale, produttiva, in una società di servizi e finanza, dove la finanza è per i ricchi e per i poveri rimangono i servizi, le pulizie, la ristorazione e appunto prendersi cura dei figli dei ricchi perché loro possano continuare a fare i loro lavori. E quindi penso il problema sia anche proprio, non è solo di tipo, cioè ci sono questioni di classe, questioni geografiche che si sovrappongono in questi due personaggi. Quindi vorrei chiedergli di spiegarci un po' il background di cos'è, visto che torna nel taglio ma in tutti i suoi libri, perché Dudley, che cos'è il Midlands e il Nord, cosa sono rispetto al Sud, che cosa rappresentano nella storia degli ultimi anni, degli ultimi 30 anni ormai dell'Inghilterra. Mi faccio solo la domanda. Sì, fai he talk about what's happening in the last 20, 30 years in England, why is the North and the South so different? He talked about, of course, the South, the North. Basically, he wants to know the background of this book and your work in generally. What's happening? Of course, we know, but what's happening in the last 30, 40 years in England? Who led to the situation now? Why England is become from an from reach of industry and is become a country of very different, very. The economy is so different now. Of course, the life of the people is different. And why this big difference from North and South? So yeah, the whole backdrop of my writing, I think Heartland, Iron Towns, the Court, is 40 years now. I think it's really key. The 40 years number is important because it's 1979 was the election of Margaret Thatcher, and subsequently from that was the very, very quick collapse of industry and this attempt to change from one economy to the other. And I think to return to Cairo, he stands in the Dudley he grew up in. He runs across it to train, you know, he's boxing training, and looks and sees a place transformed in the landscape, but also transformed in that it is visibly poorer. Lui dice chiaramente dal 1979 a oggi è evidente la Thatcher, il collasso dell'industria ha portato e il tentativo dell'Inghilterra di trasformarsi in un'economia diversa che in realtà però è diventata quello che diceva lui prima, quindi non lo sto a ripetere. Cairo cresce in Dudley, cresce in questo contesto e vede quindi nell'arco della sua vita, che sono 40 anni precisi, proprio tutto questo passaggio, quindi vede il paese impoverirsi, perdere le industrie, impoverirsi e cambiare profondamente, e come si diceva prima lui stesso è parte di questo cambiamento, proprio dismette fisicamente, quindi direi che insomma è una metafora abbastanza diretta e, questo. And so I think that experience would be the same in so many towns through England. It would be the same in many towns in South Wales. It would also be the same in towns in the west of Scotland, so that all the industrial areas. And again, I think, you know, that's, well, in my writing, that's where I've tried to capture some of the anger within individuals. And Cairo, especially, sees himself as he embodies the place he's from. The same way as Liam in Iron Towns saw himself as the representative, the embodiment of the place. Allora, sì, lui dice la stessa esperienza appunto di della perdita appunto dell'industria di tutto quello che ha comportato è la stessa in molti altri piccoli centri dell'Inghilterra, dell'est della Scozia, del sud del Galles, quindi tutte quelle erano le aree fortemente industrializzate che vivevano di quello. E ecco, lui nei suoi libri, in questo, ma poi ha citato anche il precedente e l'altro protagonista Liam, Per lui questi personaggi sono proprio embodiment, l'incarnamento, l'incarnazione della rabbia e del luogo, soprattutto fisico, cioè sono personaggi che incarnano il luogo da cui provengono e la storia del luogo da cui provengono, sono proprio rappresentanti di questo, sono simboli, se vogliamo. So I think we've got this physical material, you know, material decline or fall, and then we've also got them and us, and all the psychological issues of the British class system, which is much older than 40 years. And maybe we open out the discussion to bring it, you know, almost back round towards Brexit. I think there's a kind of divide and rule ethos that comes from, you know, British Empire and those hierarchies that have been in place. So I think we've got, that overlaid on more recent economic trauma. Sì, allora, lui dice il declinare fisico no, del protagonista è ovviamente, come si diceva già, una metafora, quindi e non solo fisico ma anche psicologico, e lui parla appunto di il problema della psicologia della classe inglese, il problema psicologico della classe inglese che viene molto prima della Thatcher, no? Magari viene da molto molto prima e ha le sue radici in motivi storici che ovviamente è difficile, però chiamiamolo proprio di una forma di mentis dell'impero, proprio no? Della concezione dell'impero inglese e del loro poi applicare questa forma mentis a tutto, del gerarchismo che ha creato ovviamente tutte le conseguenze che sappiamo, quindi lui divide ed impera, quindi no? Lo schiacciamento anche di certe classi sociali è quasi implicito in un sistema che appunto ha come forma mentale ancora l'impero fondamentalmente, come nelle sue varie espressioni, e quindi lui diceva questo è proprio il sottotesto dei suoi lavori, quindi bisogna andare ancora prima, cioè ok la Brexit, però la Brexit è la fine di un percorso che viene da molto molto lontano. Sì, no, volevo aggiungere appunto che questa cosa del paesaggio è molto importante in tutti i romanzi, forse meno in questo perché veramente ha messo due personaggi molto forti, perché entrambi sono forti, ovvio Cairo, io mi sento molto dalla parte di Cairo perché mi ci rivedo, però paradossalmente ne abbiamo un po' parlato insieme, avevamo questa cosa e ci, diciamo, nasciamo come Cairo e ci ritroviamo a vivere forse più come Grace, entrambi, no? Perché poi c'è il tipo di lavori che facciamo e quindi forse la sfida è quella di riuscire anche a trovare una sintesi fra Cairo e Grace. Il problema è che questa sintesi fra Cairo e Grace, che poi dovrebbe essere simbolicamente rappresentata dall'amore che nasce, che è incipiente fra di loro, poi purtroppo vedremo che assomiglia un po' a una sorta di Romeo e Giulietta negli anni della Brexit, ecco, invece che nel passato italiano. C'è qualcosa di un dramma shakespeariano quasi sullo sfondo fra questo amore impossibile, perché se fosse possibile trovare un accordo, però stiamo parlando appunto di due persone che vivono in contesti, in background diversi, in contesti sociali, geografici e di classe diversi, quindi è difficile. Una cosa che vorrei aggiungere, non è tanto una domanda, quindi sono osservazioni un po' sciolte, che lui rispetto a tanta narrativa in cui alla base c'è la working class, Anthony è molto bravo a rappresentare, diciamo, a evitare per esempio certe punte di machismo nei suoi, cioè, c'è quella necessaria, come, non so come definirla, stoutness forse, quella durezza che un po' di scartavetra in tutti i personaggi maschili dei suoi romanzi, Però non, al contrario di certi romanzi come quelli di Irving Welsh, eppure apprezzo tantissimo, o che so, The Factory Football di John King, lui riesce sempre a evitare delle deviazioni, un facile machismo dei suoi personaggi. Questa è una cosa molto, molto, molto interessante. E, prima di parlare di qualche altra dimensione della sua opera, oppure facciamolo subito, avevo una domanda forse stupida, però una domanda che non vorrei fare a lui, ma vorrei che lui rispondesse a nome di Cairo, cioè vorrei capire che sensazioni, che sentimenti, che cosa prova Cairo per Margaret Thatcher, perché alla fin fine è veramente è il villain, non so come dire, no? Nel senso, alla fine ci si scontra ancora con Margaret Thatcher. Io sono stato in Inghilterra nel 2001, quando sembrava che lei era già fuori dai giochi, ma aveva avvelenato il clima al punto che New Labour era pieno delle tossine del thatcherismo, e quindi aveva invaso le fila del nemico, no? Era una mossa geniale in qualche maniera. È possibile eliminare le tossine della Thatcher non dall'Inghilterra, perché purtroppo ce l'abbiamo anche noi, sono ovunque, no? Però la domanda non è quella, la domanda è veramente che cosa prova Cairo, non lui, non Anthony, e come può esprimere la sua rabbia. Gliela vuoi dire quella cosa del massiccio? Lo vuoi fare? Forse io a me piace. Okay. Just a note. He said you are very good to describe the roughness, the hard life of some character, but at the same time you avoid to create character too much with too much too much macho, too much strong. This is a thing that I noticed too on your novel. I really liked it because you are able to create beautiful, realistic men, or not hard men who suffer, but at the same time you're very good to avoid the machismo. The machism part, okay. So this is for you. Then he wants to know what Cairo, not you, but Cairo, feels about the Thatcher, which is a great villain in and because he spoke about the problem of the venom of the Thatcher who remain in the new labor also, no, in the other part, but he think he still remain toxic, the presence, also if she, you know, she's not there anymore, but in some way she's there in many way, I think, you know. Yeah, so when she died, I think the best comment when she died, yeah, but the best comment was some graffiti which appeared by London Bridge. So even its location makes it ambiguous. And it just said, the witch is dead, but the spell remains. Vabbè, avete capito tutti. Quando la Thatcher è morta, sono apparsi dei graffiti sul ponte di Londra che dicevano la strega è morta, ma l'incantesimo rimane. Quindi questo è, ecco. But especially he wants to know what Cairo feels about. So he has already answered. Okay. Well, I think that would be, Cairo's. Cairo would be doing the. Yeah, he would, but he would also, I think he would recognize that second bit, that the spell remains, and what can we do? And I'm sure that, and this is where we would, this would be Cairo, not me. I think he would say, Thatcher did what she said she was going to do. Which was to destroy, you know, the community I'm from, us, like, or, you know, that's me and Cairo. But in saying that, I think there's a criticism of everything that has come in that. I think, you know, other people have not fulfilled their promises, or even the perceived promises. So it become complicated, because I think Cairo's disillusion would also come from the new Labour years as well as those of Thatcher. Ok, sì, lui dice appunto Cairo, è ovvio cosa sente per la Thatcher, è chiaro, no? Abbiamo detto, però ecco, ok, la Thatcher ha fatto quello che in realtà si era prefissa di fare, no? Anche se lei lo diceva ovviamente come una cosa positiva, però in realtà lei appunto ha fatto quello che si era prefissa di fare, ha distrutto questo sistema, quindi le comunità e tutta la reazione a catena che ne consegue, però in realtà la disillusione di Cairo viene sì da... dall'epoca della Thatcher, ma anche da tutto quello che i politici non sono riusciti poi a riparare dopo, in un certo senso, no? Quindi la Thatcher incarna la disillusione, insomma la delusione di Cairo, ma in realtà non solo lei, cioè tutto quello che è venuto dopo, che non è riuscito in un qualche modo, no? Le promesse non mantenute dei politici e di tutti quelli che invece avrebbero dovuto fare diversamente, perché lei era chiaro che avrebbe fatto quello, era il suo programma. Il problema è che quelli che avrebbero dovuto fare diversamente da lei non l'hanno assolutamente fatto, e anzi paradossalmente riproducono forse il sistema che lei ha lasciato. Yeah, and Cairo is so tired, he says this in the story, the tiredness, but it's tiredness with, I think that comes from, we haven't dealt with any of this. We've never faced up to the Thatcher legacy or the class system that just continues and creates huge inequalities. And I think it's a society that hasn't faced its own anger or prejudice or fear. And so the sense of being stuck in the novel, I think it's where we're at now. Even we are stuck and we are in a mess, and I think it's only just about now. I think we're even starting to have that conversation in Britain. Ecco, sì, lui dice il problema è che Cairo, e che è rappresentativo della società, di quella parte della società, non è mai in realtà, cioè ha vissuto tutto questo ma non è mai riuscito in realtà a affrontarlo direttamente, e quindi e così la società inglese non è mai riuscita, dice lui, a affrontare certi problemi, e è rimasta bloccata, proprio il dibattito è rimasto come bloccato. E nel disastro, nel momento in cui siamo ora, dice, bloccati, forse solo ora si sta cominciando ad affrontare, anche grazie forse a questo evento della Brexit, si sta cominciando ad affrontare il dibattito. E questo, lo aggiungo, forse si ricollega un po' al suo discorso sulla società inglese, profondamente incapace da sempre, un po' stereotipo ma un po' vero in realtà, profondamente incapace da sempre di affrontare vis-à-vis i problemi. Chiaramente non tutti, non in tutti i modi, non voglio fare di tutta l'album faccia, sono state grandissime lotte e ci mancherebbe, anzi, però diciamo la maggioranza della società, anche quella più povera, non è mai riuscita, no, a fronteggiare bene questo, e quindi si è ritrovata poi fondamentalmente bloccata. And just on the other question, but maybe connected, so Cairo, for me, comes from observation, maybe, that he is a very tough man, he's a hard man. And just through observation, I sometimes think he has nothing to prove. So he doesn't need to show this. in the wider society, I wonder whether there's maybe too much of this posturing or pretense of toughness. And you can imagine, you can identify various politicians of the right that you might think, well, that applies to them. You know, we've got a whole list of them, and I know they exist here, throughout Europe, elsewhere. So there's maybe even a lesson, a little bit, from some of Cairo's attitude or character. Questo si ricollega all'osservazione sul machismo di prima. Lui dice Cairo appunto è un personaggio appunto che non deve dimostrare niente, che non deve provare niente, cioè questa durezza, però lui non deve provarla, non deve dimostrarla all'esterno, no? E quindi in questo senso non ha bisogno di, non dovendo provarla questa mascolinità, questa, non dovendo quindi anche nemmeno imporla, credo. Non è un personaggio sessista, non è un personaggio machista. E questo invece, appunto, lui diceva, è diverso da invece tutta una serie di personaggi pubblici, no? Soprattutto della destra, che usano invece il machismo e il sessismo, insomma la prevaricazione, come strumento di dimostrazione di una forza anche politica. Lui non ha bisogno di fare questo, lui lo è. Cioè è forte, la sua vita è stata attraversata dalla durezza, quindi è forte, non ha bisogno di dimostrarlo, e quindi non è macho, non è maschilista. Sì, io mi trovo in questa situazione un po' strana, perché penso ai suoi libri, poi rifletto alle mie esperienze in Inghilterra, alle cose che scrivo, che ho scritto molto spesso di personaggi maschili che sono forti ma sconfitti al tempo stesso, no? E questa idea appunto di mascolinità di eroi sconfitti, penso sia importante, perché è qualcosa che ti insegna anche la tenerezza. È giustissimo quello che dice lui, che poi è l'idea assolutamente destroide della forza, no? Che è una forza che si esprime solo che per esprimersi ha bisogno dei deboli. Infatti notoriamente cioè, la forza della destra si scarica sulle persone deboli. E, vabbè, questo non serve tradurlo, perché è proprio una riflessione che faccio. Così, ecco. E, no, adesso mi sembrava impossibile non parlare un attimo, dato che abbiamo Anthony a disposizione, non parlare per nulla di calcio, perché lo sfondo continuo dei suoi libri, e anche se effettivamente è la prima volta che nel taglio lui è un boxer, c'è meno calcio che rispetto agli altri suoi libri. E quindi gli chiederei di spiegarci, perché penso in tanti avranno presente i suoi libri, però che cosa significa il calcio rispetto alla working class inglese, perché è così importante nella sua esperienza, nella sua narrativa. He wants. He said this time in this book less football. He's a boxer, so less football. He's a little bit disappointed. I think he's Italian, but he's Italian, so he's an Italian man. So here, here the football is less represented. But in your works, in your narrative, football is always. Present in a metaphor, no? So he wants to know why football is so important for English writer and for English men too, I think, because it's a class representation, is a metaphor. Why is it so important, football? Why in narrative? Yeah, I think it's become very important to me. To write about football, so to use it in Heartland and Iron Towns in the way I did, partly to represent community and collective struggle, and also that It strikes me, talking about it here, it's like it's a manifestation of really successful working class culture. So successful, it seems that it's been taken on elsewhere. You know, the gentrification and so on of football. We could talk about it's a kind of another topic, but the real central thing for me was to write about the collective and community. Which is actually then where the boxing came in with the court. Ok, lui dice che il calcio rappresenta una così, la sfida di una comunità, quindi si presta, no, a questo, a quello che lui vuole dire, e anche lui dice, forse spero di aver capito bene, la manifestazione di un riscatto anche. Credo intenda, poi dicevo, di riscatto di, non solo di classe, no, nel vincere, ma anche di diventare dei vincitori, e anche a livello alto, quindi, no, di diventare grandi così, eroi in un certo senso, no? Sono veramente eroi per gli inglesi, cioè un po' come per noi, quindi ecco, il calcio ha più livelli, serve, no, alla sua scrittura. E di nuovo lui parla appunto di rappresentare una collettività, immagino poi, no, le squadre di calcio di ogni piccolo posto, questo, insomma, ecco, questa è la risposta. E, visto che abbiamo parlato di vittorie, di sconfitte, il calcio è anche antagonismo, no? E poi quindi è combattimento, è quello che loro chiamano challenge, una parola che noi non abbiamo granché, sfida. Alcuni dei protagonisti, per esempio Liam, protagonista di Iron Towns, erano genere, appunto, ecco, personaggi con un piede nelle fonderie del passato, il genitore che lavorava in fabbrica, il figlio che fa il calciatore, è sfuggito alla fabbrica, però a 40 anni rischia appunto di vedere un collasso esistenziale, no? Una sconfitta. E questo personaggio che ha un piede nella vittoria, però è una vittoria però che si consuma rapidamente, e un futuro di rapporti familiari problematici, lavoro che c'è non c'è, fisico che comincia a abbandonarti, è una bellissima incarnazione secondo me di quello che è il working class hero. Ecco, noi in Italia non abbiamo questa espressione, è difficilissima, io l'ho messa tanto per fare casino nel sottotitolo di un libro mio. Però ogni volta devo spiegare che cosa significa essere un working class hero, perché non abbiamo proprio il concetto in Italia. Ecco, quindi vorrei chiedergli appunto di spiegare se ci sono working class heroes, come penso, nei suoi libri. Non parlo solo nell'ultimo, ma anche nella sua opera precedente, e di provare a spiegare questo concetto sapendo che in Italia non è così di immediata comprensione. È solo una canzone di John Lennon. He said, of course, football is a challenge, so in he understand the concept. He said the concept of working class hero is not very common to us in Italy. We don't have this kind of concept of working class hero. For us, it's just a song. But you want to know if you're able to explain to us what a working class hero is for English, because in your work, especially in the previous the Irons Town, Liam is a working class hero. Then he come back, no, of course, if at a certain point, and then he fall, but. What is a working class hero for you? That's a really good question, and I think it is particular to the. It's interesting that it does seem particular to British working class culture. I think maybe the best way of thinking about it is almost as a embodiment of. Transcendence, of hope, of victory, against them, maybe. This kind of, yeah, this other, which is power, privilege, class system, whatever. But I think there is definitely something about that dynamic and that hierarchy that creates this idea, this character. Because the important thing, I think, is that working class hero is successful and transcendent, but also rebellious, and is doing it with their own, you know, with their own rules. Noel Gallagher is a working class hero. I don't know who is this from my generation. Sorry, non ho resistito. Allora, lui disse, sì, è una cosa molto specifica della cultura inglese, della working class inglese, questo concetto di working class hero. È l'incarnazione di una vittoria, di un trascendere a dei privilegi, di un accedere a un qualcosa che ti è sempre stato negato, e quindi di fare un passaggio. E lui dice, quindi è un hero, cioè un eroe, quello che riesce, no? In senso classico proprio della parola, a passare, ad accedere a un livello superiore. Detto questo, però, è anche in realtà una vittoria, sì, però esplica bene la dinamica tra le due classi, quello che dicevamo prima, no? Perché in realtà sì, il working class hero è quello che vince, è quello che va a ottenere, quindi l'eroe di una comunità oppressa che vede nel suo eroe, appunto, no? E però allo stesso tempo è un ribelle, è uno che in realtà non vuole, cioè entra acquisisce i privilegi, quindi la ricchezza, la vittoria, però allo stesso tempo resta proveniente dalla sua classe, e quindi c'è questa dualità in lui, nel working class hero. Non è uno che è solo, che l'ha svoltata, è diventato solo ricco, è proprio come nel suo primo, cioè un po' perché si può sempre cadere e ritornare indietro, immagino, e in genere succede, e poi perché in realtà si porta dentro i semi di un problema politico mai risolto, credo, no? Che è quello che lui diceva prima del residuato del taccerismo e ancora prima dell'impero, e quindi è questo il working class hero, che effettivamente forse noi abbiamo gli eroi politici, abbiamo i martiri, abbiamo, non lo so, però è diverso per noi effettivamente. In class hero è qualcuno che appunto è stato forgiato da un ambiente e poi esce da quell'ambiente, però poi ci ricade continuamente perché è parte di quell'ambiente, e quindi è, perché se, non può essere, cioè non è un, non può essere un operaio, deve essere qualche cos'altro, deve essere un cantante, uno scrittore, però poi dopo comunque deve cadere, un calciatore, Eppure cadendo apre sentieri in qualche maniera, penso sia, e alla fine forse si sacrifica anche, non lo so, non ci guadagna poi tanto, perché è una parabola anche discendente in qualche maniera. E, va bene, no, io non so quanto tempo abbiamo ancora, iniziamo a fare qualche domanda? Ok? Allora, la prima domanda, Pietro. Muore dalla voglia di farti domande, vuole pubblicare un libro. Hungry for question. No, è una domanda che in realtà faccio sia ad Anthony che ad Alberto, che è sul, abbiamo intanto parlato di working class, eccetera, è un po' più specifica sulle modalità del raccontare, no, la working class. Io ho letto Heartlands e Iron Towns, ancora non leggo il taglio, però lo farò, e mi ha colpito particolarmente il fatto che nei tuoi due romanzi si parla molto di un ambiente working class, di un milieu working class, senza necessariamente che i protagonisti siano in se stessi l'incarnazione della figura lavorativa classica, operaia, della tuta blu, dello stereotipo working class. Cioè Liam è un calciatore, la sua ex compagna gestisce un bar e faceva la cantante. Questo in Iron Town. In Heartland il protagonista è un ex calciatore che lavora a scuola, il ragazzino che viene aggredito è un seconda generazione pakistano, bengalese, non mi ricordo, i cui familiari hanno un piccolo negozietto. Vengono tutti da un ambiente che è quello della working class, delle periferie, delle province britanniche, ma nessuno di loro, nonostante un passato operaio, incarna in se stesso quella figura archetipica della tuta blu. Invece, in parallelo, tanta narrativa working class italiana è incentrata soprattutto su queste figure operaie, o perché esse stesse sono protagoniste dei libri o anche scrittori o scrittrici dei libri in prima persona, o perché magari gli autori o le autrici raccontano la storia di un padre, una madre che faceva parte proprio di quella figura professionale, non solo di un ambiente working class, ma di quella figura professionale archetipica della tuta blu, dell'operaio o dell'operaia. Tutti noi sappiamo che la classe lavoratrice, la working class, non si riduce solo all'operaio o all'operaia. Ci sono un sacco di figure lavorative proletarie e proletarizzate ancora di più nell'evolversi dell'economia. Sì, poi dopo tu sintetizzi. Però diciamo c'è questa un po' una differenza tra una narrativa working class britannica che racconta un ambiente, un mondo, e una italiana che magari racconta più una figura lavorativa. E ho visto anche una differenza tra delle modalità formali narrative, tra quella britannica che è più di fiction, che racconta quel mondo anche attraverso il romanzo classico, la finzione, e quella italiana che è molto più incentrata su un mix tra biografismo, autobiografismo, memorialistica, reportage, autofiction, racconto in prima persona, con delle forme meno classicamente romanzesche, incentrate appunto su queste figure individuali che incarnano in sé, nell'individuo, ancora prima che nell'ambiente. Allora, la domanda è a entrambi. So che Alberto conosce bene entrambi i tipi di narrativa working class, sia italiana che inglese. Non so quanto Anthony conosca quella italiana. Secondo voi, questa differenza deriva da un portato, da una tradizione letteraria in sé per sé, o deriva da una tradizione politica, sociale, sindacale, storica del milieu working class? Posso rispondere intanto io e poi... Ok. Non lo so. Allora, io ti posso dire che quello che loro fanno è fondamentale per quello che facciamo noi. E più dell'inverso, perché nessuno di noi è conosciuto da loro. Quindi diciamo che noi facciamo i conti con loro, mentre loro non fanno i conti con noi. È ovvio che la working class, cioè la rivoluzione industriale nasce in Inghilterra. La working class nasce con la rivoluzione industriale, il prodotto è proprio dialetticamente creato e nasce in Inghilterra. La scrittura, la narrativa working class nasce in Inghilterra. E, noi ci siamo formati in certo modo dopo e abbiamo forse una tradizione più debole. Questo ci permette di non fare i conti con il realismo, magari ci permette di inventarci una maniera diversa da loro. Loro tengono molto a lavorare su un romanzo di fiction, anche se poi gli sfondi biografici ci sono, però li disseminano nella narrativa in terza persona, anche se non è sempre così. Ho visto delle ultimissime produzioni molto più simili a quelle che facciamo noi. Io non, cioè non penso ci sia anche un'altra questione, che forse il memoir può essere una cosa positiva o negativa. Il memoir è una figata perché va anche un po' di moda, però purtroppo a lungo il memoir è stata l'unica possibilità che la classe operaia aveva per raccontarsi. Cioè, la fiction era roba per i borghesi che inventavano mondi, e i poveracci dovevano raccontare solo la loro storia, cioè avevano una cartuccia sola da sparare, la propria. Per fortuna che spaccava, perché, e quindi si giocavano sta carta. Però in fondo, cioè, io posso, capito? Beh, loro sono riusciti a farlo, non hanno fatto tanto memoir, però c'è. Se prendi Margaret Powell, che fa Ai piani bassi, non mi ricordo come si dice in inglese perché i titoli amano, quello è un lavoro in autofiction, scrive una domestica inglese degli anni 50 con la quinta elementare che scrive la sua storia in autofiction. Quindi loro hanno anche una grossissima traduzione di romanzo sociale realistico, voglio dire, da Dickens in avanti. Ecco, quindi è ovvio che questa cosa pesa. Noi abbiamo anche un influsso francese, per esempio, cioè io delle volte guardo nello stile ai francesi e nell'atmosfera agli inglesi quando scrivi. Quindi gli inglesi hanno fatto l'ibrido, hanno fatto, pensi a Ernaux, o anche a altri meno working class come Carrère, che è aristocratico, però hanno lavorato su queste forme, no? Che non sono cose che forse non hanno saltato bene la manica, però da noi arrivano e noi quindi, cioè io mi trovo che guardo allo magari a un modo di stile, a forme espressive francesi e metto contenuti working class britannici. E li mescolo e poi ci metto il carico labronico, le cazzate, insomma. non lo so, sì. Intanto, sì. Sentiamo anche... It's not easy because it's... But no, it's okay, yeah. So I think political and cultural influences that, you know, as with Alberto said about Italian working class writing, I think the same for British working class writing. I think there's a very particular tradition and form of British working class writing that, although it's fiction, I think there's always this sense of it being, you know, based in the real, so social, realist, and authentic in some way, and often based on the author's own experiences or close to him or her. And I've become quite interested that in itself creates a kind of narrowness. So it might suit certain people that is kind of the dominant form, and it's almost like, oh, that's how you write a working class novel. Or even that's how you make a film about working class life. So a Ken Loach film, for example, is familiar to us. It's a generic form. Sì, chiaro. Lui dice c'è una particolare forma nella scrittura inglese che parla della classe operaia, no? Quello che dicevi anche tu prima, che noi chiamiamo fiction, ovviamente. Ma che si basa sull'esperienza diretta, no? Personale degli scrittori, e quindi che crescono nel contesto della working class hero inglese, e che sono i cui genitori sono stati appunto operai, e quindi si crea questa particolare forma estetica di scrittura, chiamiamola, di cui tu parli, che è differente dalla nostra per tutti i motivi che abbiamo detto. Diciamo che poi lui dice non è che è tutto uguale, cioè non è che tutti gli scrittori inglesi l'affrontano nello stesso modo, anche perché vengono da luoghi diversi, quindi anche questo cambia, un conto è uno scozzese, un conto è uno dell'Inghilterra del Sud, però diciamo che quello che arriva poi all'esterno è la forma dominante, cioè no, è l'estetica è dominante, quindi quando si parla di registi ci viene in mente Ken Loach, non è che tutti i registi parlano della working class hero come Ken Loach, ma Ken Loach ha stabilito uno stile e poi i registi seguono quello stile alla Ken Loach, no? Non tutti, però diciamo quello che ci arriva è un po' questo, Mike Lee e Ken Loach, aggiungo io. E questo avviene nella scrittura anche, ovviamente, non è nemmeno tutto vero che è tutta così, però quello che poi no, ci sono degli stili che dominano e in cui poi molti scrittori si ritrovano e quindi si, per molti motivi poi usano. Quindi questo è un po'. And it's not to, I mean, I've written very much in that form. The Cut particularly is a, I think you could say, a social realist novel. Irontown's maybe slightly less so. But it is interesting that when working class writers leave that form or tradition, they seem to face more criticism. So for instance, James Kelman, very great novelist from Glasgow, has written mainly about Glaswegian working class life, but in a more modernist form often. And I think for that reason it's sometimes seen as transgressive or dangerous. It's possibly because he's such an excellent writer and says quite explicitly there are working class people who have been oppressed in Britain. So maybe it's to return to, it's, I think it is both political and cultural, and he would be a good example of the challenges, I think. James Kelman. Ok, sì, lui dice in realtà quando ci si allontana poi da quella forma fiction si viene criticati, credo che dicesse questo, no? Si subisce una critica e quindi quindi poi si smette di fare, cioè lo scrittore non lo fa, perché lui ha citato Kalman come un esempio invece di uno scrittore che è riuscito a parlare della classe operaia, del suo contesto, in maniera sia culturalmente efficace, bella, e sia però molto forte, molto estrema, molto politicizzata, direi anche io. Ora non conosco bene le sue opere, però immagino. E quindi lui cita questo scrittore e dice: è possibile in realtà per gli scrittori inglesi emanciparsi da questa schiavitù della fiction e riuscire a creare delle opere che sono insieme forti politicamente e anche con una forma però bella. Lui dice poi di cercare di fare questo lavoro nei suoi libri, non tutti uguali, appunto il precedente è più appunto in questa forma e questo qui è già diverso, però parla appunto della possibilità, ha citato questo autore che gli piace molto, che secondo lui è riuscito in questo intento. Ci sono altre domande? Abbiamo ancora tempo, perché non so, siamo un po' arrivati. Stretti. Se c'è ancora un'altra domanda. Certo, c'è un'altra domanda. Io sennò we are running out the time. Se no gliela faccio io la domanda. Io ce l'ho. Sì, vai, parla tu. Vai. No. Translator. No, no, prima il pubblico. Ok. Allora. Ok. Vai. I have a question. It's just on. Sì, sì. Allora, c'è un autore inglese del passato che mi piace molto, e che si chiama Thomas Hardy, che è lo scrittore di Via dalla Fazza Folla, lo scrittore che è stato spesso identificato come così lo scrittore di certe classi, sì, sì, di certe classi basse inglesi. Ovviamente è un po' anche lui diventato uno stereotipo nel tempo, sono stati tratti film, insomma, non sempre forse anche, insomma, non li hanno forse capito del tutto, però mi chiedevo se questo scrittore, che è un po' considerato così dalla cultura inglese importante, se a lui piaceva, insomma, se a lui piace e se effettivamente pensa che ci siano dei retaggi della sua scrittura anche oggi. I spoke about Thomas Hardy. I don't know if you like his writing. Of course, he's from a past, so I always felt like I always like his work, of course, knowing there is a past from the past. But I want to know if you like his work, and if you think that the work of Thomas Hardy find now we could find some legacy in the writing of a certain class. I don't know if it makes sense. Of course, yeah. There's one thing. I think there's maybe one thing that very clearly or explicitly, and it's something to do with how, I mean, there's obviously much more, there's many things I could say, but I think with Hardy you get the real extreme emotions. And I think that's really interesting because it kind of undermines the very establishment, cold, you know, the stiff upper lip attitude. Whereas I think a lot of working class life as lived follows the Hardy pattern more. Like the emotions are more evident. And I mean kind of, maybe that's true in fiction on the page, but I mean as kind of lived experience. I think it's odd sometimes. I think there's many British people, when we go abroad and then the perception of Britain, yeah. It's like, oh, okay. It's not, I mean, as with all stereotypes, it's not the full story. Sì, lui dice, sì, ovviamente nei romanzi di Hardy c'è un estremo trasporto sentimentale, no? È così, nel senso i suoi personaggi sono appartenenti a certe classi e la lotta è molto estrema, è molto romanzata anche, no? È così. E quindi lui dice, in realtà forse questo ha più a che fare con la vita, cioè di come gli inglesi si rappresentano nella vita vissuta, che non tanto poi nei romanzi che sono venuti dopo Hardy, no? Ovviamente si parla di un romanziere della fine dell'Ottocento e a cavallo col primo Novecento, quindi è chiaro che è diverso. Però lui dice questa espressione della rivolta molto passionale, no? E la controparte invece rigida, no? Dell'impero, della guardia, ha più a che fare ovviamente con un immaginario, paradossalmente però con quello in cui gli inglesi forse un po' si rivedono e che è diventato un po' lo stereotipo. E quindi lui dice, sì, è chiaro, c'è ancora tutt'oggi le tracce di questo, e è buffo, poi lui diceva un po' così, passando ad un'altra cosa, come ci si veda dall'esterno, no? Come gli inglesi sono percepiti con certi stereotipi che forse vengono anche dalla letteratura, e è sempre buffo vedersi come ci vedono gli altri. E questo forse può tornare un po', per chiudere, se ti può aiutare, alla Brexit, no? Se si vuole dare una chiusa adesso, veloce, un'altra domanda che forse può aiutare a chiudere. Quindi, secondo te, come questo rifiuto, insomma, come questa uscita dell'Inghilterra è stata vista dagli altri, come tu pensi che è stata vista dagli altri paesi? Which just very quickly, that's that perception idea, it just reminded me of a quote from a great working class hero, Arthur Seaton, a character in Alan Sillitoe's Saturday Night and Sunday Morning, when he says, whatever it is you think I am, that's what I'm not. Beh, penso abbiate capito, lui ha detto, c'è una citazione appunto. No, sabato sera, domenica mattina, sì. Che è un grandissimo romanzo, sì. In classe degli anni 50, esatto, sì. Di Sillitoe, sì. In cui il protagonista dice, tutto quello che voi credete che io sia, bene, non lo sono. Questa è un po' la descrizione, no? I translate for you my question, which is for closing, about Brexit. Gliela vogliamo fare, gliela vuoi fare un'altra? Vai, certo. A questa frase aggiungerei io che l'unico modo per evitare questa cosa, di dire qualsiasi cosa pensiate, io non lo sono, è quello che cerchiamo di fare con la narrativa working class a noi qui in Italia, noi diciamo, raccontiamoci noi prima che ci raccontino gli altri. È un po' una risposta a questa cosa qui. Noi ci raccontiamo con ogni mezzo, con la fiction, con il memoir, però meglio raccontarsi da soli prima di essere raccontati degli altri, che sia Grace empatica o qualcuno meno simpatico di Grace, raccontiamo voce, cioè parliamo con le parole nostre, non con quelle degli altri. He said the trying of the writer, Italian writer about from working class is just that point important. Try to reclaim the debate, the narrative of our stories before journalism and as a political take from us our story. Before that is important that we write our story as we live. So in answer, no, at the before. For you, the last question is how is you, about Brexit, how you think the rest of the world, the Europe, feel, it's difficult, I know, but how you think, no, and the other side, how English think about the other perception. Well, I think the real tragedy of the situation right now is that of all the subjects and issues that could have created a kind of reaction, rebellion, a kind of saying no. Of all the issues, the least appropriate and the least likely was an argument about the European Union. Mm. Why not about the economy and inequality and the hospitals? And that could be a long list. Mm. So that's our that's our problem, which we've now made a problem for everyone else. Lui dice la vera tragedia della Brexit, di questo dibattito sulla Brexit è che in realtà tutti i soggetti, appunto, no, che dovevano dire no e soprattutto però spostare il dibattito su altri problemi che erano quelli reali dell'Inghilterra e forse non mi viene da dire apposta non l'hanno fatto. Che erano i problemi della sanità, della povertà, del divario, è sempre più grosso, non solo proprio per non affrontare quei problemi lì, hanno spostato tutto sul problema della Brexit, che sì, certo, è rappresentativo, però proprio perché non è unico e mette in campo tutto altro, quindi hanno risolto facendo una scelta e non hanno affrontato poi i problemi, che sono poi problemi che si ritrovano anche negli altri paesi della comunità europea, ovviamente. Quindi questo, insomma, questa è la grande tragedia, il grande problema, secondo lui, e mi sembra questo. And just that perception from elsewhere, I'm sure it looks like we're in some kind of like mental breakdown or disintegration, and I use that you know, carefully. I mean that is maybe what it seems like, and I think that perception is probably fairly accurate. Yeah, and you know, the big challenge is how we get out of the situation that's been created, because every single opportunity we've had, the situation has become worse. Mm. So, let's see. Sì, lui dice la percezione che si ha dall'esterno della situazione inglese in questo momento, che ha portato a questa scelta, probabilmente è come vedere uno che ha un crollo mentale, cioè che ha un meltdown, che impazzisce. Cioè, niente. E questa è la percezione che hanno che si ha probabilmente secondo lui dall'esterno. Il problema è appunto poniamoci il problema di come si può uscire da questa soluzione, da questa situazione, e invece a suo parere sembra che ogni svolta, ogni passaggio vada sempre in peggio, vada sempre più a incartarsi invece che a uscirne, quindi credo sia questo. Dobbiamo cedere il passo alla scaletta. Vabbè, ringraziamo. Volevo precisare che i libri di Anthony Cartwright sono in vendita nel bacchetto, non questi qua fuori, ma quello della libreria La Cité, che se non sbaglio sta nel corridoio esterno, insomma. elogiato e vedi, sono proprio un working class, c'è cioè la parola tra lo giuro. E niente, ringraziamo Anthony e speriamo magari di rivederlo in futuro anche. Thank you a lot.